questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni sorso 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Affronteremo un avversario molto forte, da sconfiggere in ogni modo. Questo è Drogba! Oggi è un giorno molto grave per la Juventus, gli Juventini e il calcio italiano. Salvo il Milan che ha salvato la buccia all'ultimo respiro contro l'Ajax, il Napoli fuori con tutti gli onori. 8-0-0-24, ma siamo tutti un po' tristi. Antonio Conte, non mi dica che da bambino non le piaceva giocare con la neve. Pronto, buonasera. Buonasera a tutti, innanzitutto. Buonasera. Sì. Subito le battute, cioè proprio simpatici, vogliamo fare i simpatici, ecco. No, è lei che ha detto il campo, ha arato il campo da una parte, non dall'altra, il campo valeva per tutti e due. Se la Juventus sì, va fuori con sei punti è giusto. No, non è così, non è così, perché se lo devo attaccare da una parte il campo sta messo male, come faccio? Cioè, guarda caso il campo dove attaccavano gli altri stava messo bene. E come me la spieghi lei? E come me la spiega? Cioè, stava Giovinco, Sebastiano Giovinco, che faceva sì. I pupazzi di neve, soltanto dalla nostra parte. Sì. Dalla nostra parte gli è uscito un pupazzo bellissimo, dalla parte degli avversari non c'era più la neve, come mai? Quindi sì. È colpa del campo e non di un girone pessimo, quello della Juventus. Ma assolutamente, è colpa del campo, assolutamente. Poi noi delle nostre cose, ma è colpa del campo. Ma è possibile che in Champions League, come si chiama sta cosa, ci sta in campo così? Ma manco in terza categoria quando gioca che ne so, cioè, ma non scherziamo, non anche le parole per dire, cioè, ma anche in terza categoria un campo così, sì. Ma anche in terza categoria, dai. Sì. Quindi è solo colpa del campo, mentre Drogba e Sneijder hanno giocato sul velluto. Vabbè, adesso vogliamo fare Drogba è un grande calciatore, lo sappiamo. Sneijder gioca soltanto bene perché c'è contro la Juve, che lui quando vede bianco-nero gli si illuminano gli occhi, che è da due anni che non vedeva la palla manco per sbaglio. Proprio ieri, porca, scusate, però dico, vabbè. Adesso tornate in Italia, dove non è che faccia caldissimo in questi giorni. 6 gennaio con la Roma, però potreste cambiare sede, no? Magari andare a giocare, non so, in Brasile o a Lecce. Se lei fa simpatia le battute adesso, spero che non nevica, che non ci sia un freddo agghiacciante ancora, perché questa che poi tutti gli fa le battute, no? Lei ha sentito, agghiacciante, sì. Conte agghiacciato, e quello agghiacciante, questo agghiacciato. Sì, ne ho viste tante anche su Facebook, pure io. Si sono divertiti. Ci stava Giovinco alle sue spalle. Su Facebook, dico che lui va sempre sui social network a giocare, a vedere, ma diceva: zio Antonio, guarda che ti piglia per il culo tutti qua con agghiacciante. E gli ho detto: e mo che ti devo dire, Sebastiano? Beh, no? Forse vanno bene oggi, no? Ma no, fanno bene. Ricordo agli amici interisti che parlano che sei da due col Trapani, mo glielo dico, tra i due col Trapani è sofferta, ma scherziamo, dai, Milan che è passato, sì. Se pensa a salvarsi in Serie A piuttosto che passare, sì. Dai. C'è chi mi scrive, ma vai a fanculo tu, è l'imitatore. Beh, ecco, prenditela lì. Ma imitatore di che cosa? Cioè, tra l'altro, scusa Carlo, ma dimmi. Tra l'altro io lo dico, sono anche un Juventino, quindi faccio fatica. Appunto, adesso. No, immagino, Michele Negroni. Faccio fatica adesso. Ma Antonio Conte crede in Babbo Natale? Antonio Conte crede in Babbo Natale, io non lo so. Prova a chiederglielo. Antonio, credi in Babbo Natale? Ma spero di sì, così magari un regalo me ce lo fa, ma più altro è Giovinco che ci tiene a Babbo Natale, che gli porti i regali, I gormiti. Esatto, bravo, i gormiti, che sei informato. Una cosa adesso però, mo che siamo usciti dalla Champions, non c'è sta più per nessuno in campionato, mo ve lo dico, mo non dovete più parlare, a febbraio avete già finito di parlare del campionato. Michele Negroni, cosa ne pensi invece dell'eliminazione della Juventus? Ma guarda, io ti dico, facendo poi così l'imitazione, questa si è proprio abbastanza super parte, però questa l'ho vissuta abbastanza. L'hai vissuta male, l'hai presa sì, male. Sì, perché non, insomma, appena ho visto la neve ha ricordato un po' l'episodio di Perugia, no? E sono proprio che questa coppa è stregata per la Juve, perché io ne ho viste di ogni, ho visto 4 finali perse, Borussia quando erano favoriti, col Milan, e proprio mi spiace proprio per la coppa. Sì, vabbè, poi la Juventus ci mette del suo per renderla stregata, perché in questo girone se fai 6 punti meriti di andare a casa, cioè il verdetto è corretto. A me spiace più che altro anche perché poi i 6 punti giusti sono pochi, però per come sono usciti, perché a Madrid abbiamo giocato meglio noi in 10 che loro, abbiamo perso. Con il Galatasaray abbiamo preso 2 tiri, 2 gol, con Copenaghen mezzo tiro, 1 gol. Per carità, non sono giustificazioni, però è andata anche, come si dice, di sfiga, nel senso che ogni partita non girava giusta. Sapendo poi che è passato lo Zenit con 5 punti, con 6 se non ricordo male, ma perdendo 4-1 l'ultima partita, però è rimasto fuori il Napoli con 12. La Juventus nel girone del Napoli cosa faceva? 1.5? No, per quali, infatti, poi c'è il Napoli che sicuramente può recriminare più della Juve, perché 12 punti in quel girone lì così difficile è tanta cosa. Però beh, insomma, abbiamo sbagliato noi, certo che la sfortuna ha fatto anche la sua. Certo che non è la colpa della Juve, diciamo, la Champions. No, non è mai stata. Storicamente non lo è mai stata. Grazie Michele Negroni degli autogol. Ma figurati, grazie a te Carlo, complimenti per la trasmissione. Grazie. Un Michele. Saluto. Ciao Carlo, ciao. Vabbè, se vuoi scherzare, ve la prendete subito così tanto. Dai, fatti bravi. 800 24 00 24. Pardo è ancora vivo. Lo sentiamo subito dopo il traffico. Avremo anche un ospite con lui, è ancora vivo. È ancora a Istanbul, chissà se e quando riuscirà a tornare, speriamo non prenda il raffreddore. Strade. È inutile ci giriamo intorno e dire che io vedo i fantasmi. Iniziate a non dire fesserie. Tutti convocati. Sì, ma quello che mi ha fatto arrabbiare l'arbitro, perché ieri ha sospeso la partita perché era dangerous per i calciatori. Oggi tutto un tratto non era più dangerous. A fine del primo tempo gli ho ribadito anche questo. Ieri, in inglese, forse il mio inglese, devo migliorare in inglese perché non riesco a spiegarmi bene neanche con l'arbitro, con i delegati UEFA, quindi non mi capiscono. Ferma tutto da alibi, prima che tutto sia distrutto da se solo ci rifletti, vedrai che se tu per primo smetti di crearti alibi. Noi siamo stati penalizzati in maniera enorme, perché una squadra che gioca a calcio diventa penalizzante. L'abbiamo messa sulla bagarre, alla bagarre è capitata una situazione dove loro sono stati più bravi. E so che quando le prendi poi fa malissimo, triste no, e sì che sto cercando di non far lo stesso, sai cosa mi riferisco bro. Pallone profondo a cercare Drogba, di testa la gira, attenzione all'inserire, tiro, rete, e il vantaggio con lo Snyder del Galatasaray, adesso è durissimo. Non dimentichiamo che la sfortuna anche, perché noi abbiamo dovuto attaccare tutto il secondo tempo su un campo praticamente impraticabile, mentre loro hanno la possibilità di giocare su un campo decisamente migliore. Allora, io detesto in generale quelli che cercano alibi di qualunque tipo, e il campo, e l'orario, e la ripetizione del match, eccetera, eccetera. Secondo me il risultato è sportivamente giusto, quello di ieri sull'Acquitrino o il Porcile di Istanbul, se preferite. Ma la mia principale preoccupazione, so che riceverò un sacco di telefonate, 800 24 00 24, messaggi 3492386666, in cui mi diranno che non è così. Però la mia principale preoccupazione è che Pierluigi Pardo non mi torni con raffreddore, e con lui anche Maurizio Crosetti. Pier, come stai? Bene, bene, siamo in partenza, se Dio vuole, anzi. Hai la febbre, tutto a posto? Hai messo le mutande di lana? No, ma guarda, non faceva clamorosamente freddo. Ma no, più che altro c'è stato di tutto di più, nel senso che abbiamo visto neve, nevischio, neve che gira, grandine, di tutto, sì. Sole anche raramente, insomma è stato veramente da due giorni, non ci siamo, sembrava l'All-Star Game della meteorologia. L'All-Star Game della meteorologia non è male. Maurizio, però d'altra parte non è che a gennaio a Verona in infrasettimanale, tanto per dire, le condizioni ambientali siano così diverse? No, forse anche peggio, io poi vivo a Torino, quindi per me la neve di Istanbul è comunque una specie di viaggio in Riviera, mi pareva di essere a Rapallo, quando veniva giù quella neve pareva una coreografia, no, in realtà il problema delle notturne è molto più ampio rispetto a un'incertezza, a un imprevisto così clamoroso sul Bosforo, insomma. Il problema non è il Bosforo ma il fosforo, di quelli che continuano ad avere in testa la voglia di far sempre giocare in condizioni limiti. Però è anche vero, lo ricordavo ieri, che negli anni 60 la Coppa dei Campioni si giocava di sera, quando c'era la neve si prendeva la neve, quando il campo era fangoso si prendeva il campo fangoso, sì. E non mi risulta che Nereo Rocco o Herrera dicessero che non fosse calcio, perché il calcio è anche il fango ogni tanto. Ma certamente, ma è giusto così, cioè non è che il Super Bowl quando si gioca a Cincinnati, voglio dire, preveda il sole, gli sport che si giocano con gli elementi della natura, insomma, contemplano gli elementi della natura come parte integrante. Anzi, a me piace molto così. Non mi piace invece chi cerca alibi. Quindi non so chi di voi due ha voglia per primo di togliere la maschera a Conte. Magari Pardo. No, guarda, io ti dico che secondo me la reazione di Conte è stata una reazione composta. Cioè io sinceramente da tutta questa vicenda comunque esco con una situazione che di correttezza e di sportività da tutti i lati. Marotta anche off records ci ha fatto capire che il Galatasaray non ha cercato di pescare nel turbito, non ha cercato mai di utilizzare la situazione a proprio vantaggio, la Juve ha fatto lo stesso, alla fine si è giocato perché l'ha deciso l'UEFA, perché c'è questo benedetto sorteggio del lunedì e c'è stata una correttezza, una sportività assoluta da questo punto di vista. E anche nelle dichiarazioni post partita, secondo me Conte ha detto le cose alla fine oneste, insomma. Io mi aspettavo anche atteggiamenti diversi, e secondo me, cioè, l'alibi c'è, è ovvio che questo, per me non ci sono dubbi, questo campo ha favorito la Juve, ma per un motivo semplicissimo, perché la Juve secondo me è più forte di Galatasaray, arrivava in una grande condizione, e quindi un campo che diventa un fattore capace di trasformare la partita in qualcosa di diverso dal più forte vince è comunque una turbativa. Sì. Su questo non c'è discussione. È anche vero che il Galatasaray doveva per forza attaccare, quindi quello non era un campo adatto per attaccare in linea di massima, però è anche vero che comunque ogni pozza poteva diventare pericolosa, sì. Ogni retropassaggio poteva diventare a rischio. Sì, però c'è anche in questo contesto la capacità che la Juventus non ha di modificare la partita. Ieri si poteva giocare palla lunga saltando il centrocampo verso Llorente, come ha fatto il Galatasaray con, ad esempio, la nazionale del gol. Palla lunga e le sue due stelle, cioè Drogba e Sneijder, che segnano il gol partita. È chiaro che è una partita che si dice... Ricordi il derby di Roma dell'anno scorso? Sì, non ricordo. La partita cominciata con la Roma e fa in vantaggio. Improvvisamente si abbatte il arbitraggio e la Lazio, lo scorso anno i tifosi della Roma e della Lazio se lo ricorderanno benissimo, è molto più brava nell'interpretare la partita, nel capire che doveva giocare palla lunga, che non c'era possibilità per fare un possesso palla raso terra, perché non c'erano proprio i margini, e ci riesce. È la stessa cosa che mi è successa ieri. Detto questo, poi insomma, il Galatasaray ha avuto due occasioni, dai. Il Galatasaray ha avuto due occasioni e la Juventus in porta in sostanza non ha tirato mai, ma come era anche prevedibile. Più che altro la Juventus non è stata capace di adattarsi a queste condizioni diverse, cosa che nel calcio è anche possibile, cioè è possibile avere delle condizioni diverse che ti impongono un disegno diverso da quello che vorresti tradurre sul campo. Maurizio. Sì, devo dire, poi ieri sera da davvero malato del calcio in albergo me la sono rivista, c'era un'emittente turca che ha ridato la partita, penso che andranno avanti così fino all'Epifania ogni due ore, è anche giusto, è comprensibile. Mi sono rivisto i primi 20 minuti asciutti, diciamo, di martedì sera, e beh, comunque la Juve è rimasta passiva anche senza la neve, cioè secondo me ha ragione Mancini quando dice che la Juve pensava di poterla gestire in maniera abbastanza disinvolta, due risultati su tre, non dico un catenaccio, però neanche un'iniziativa pazzesca, insomma, e io credo che poi alla fine questa passività sia stata punita e vada assommata, per spiegare l'eliminazione, ai grandi imbarazzi vissuti in tutto il girone, cioè sarebbe davvero molto riduttivo, non lo fa nemmeno Conte, è stato onesto in questo, pensare che la Juve sia stata eliminata solo per l'anomalia della neve, per il campo che era fangoso nel secondo tempo, perché Snyder ha trovato il colpo, apro la parentesi, i fuoriclasse asciugano il terreno, sì. I campioni riescono a fare le finezze anche nel fango, chiusa la parentesi, e soprattutto segnano nelle partite decisive. Abbiamo avuto la rappresentazione pratica di quello che significa la traduzione letterale, la traduzione calcistica della parola top player o top players. Certo, ma perché all'andata il top player è stato Drogba e ha sfruttato l'unica occasione estrema, al ritorno Snyder ha fatto la stessa cosa, anche se non era l'unica, perché Buffon, non dimentichiamo, l'aveva fatto una paratona su Drogba un po' prima. Quindi alla fine ci sta che la Juve esca, ci sta uscire con 6 punti se riesce a battere soltanto il Copenaghen in casa, e con un Napoli che esce con 12, cioè c'è poco da fare, con tutte le attenuanti del caso la Juventus si è dimostrata del tutto inadeguata alla Champions quest'anno. Il bilancio è fallimentare se lo guardiamo nelle 6 partite ed è la prima vera delusione dell'era Conte. Cioè, in 2 anni e mezzo la Juve non aveva mai vissuto una pagina come questa, perché il primo anno aveva dominato, non aveva l'Europa, in campionato ha dominato, era una sorpresa, ha fatto l'anno scorso in campionato ha ridominato e in Europa è uscita contro il Bayern nei quarti di finale, sappiamo bene poi quello che il Bayern ha fatto al Barcellona solo pochi giorni dopo. Quindi è la prima volta da quando c'è Conte alla Juve che si va nettamente sotto al par. Sono d'accordo, tanto che per me è adeguata la parola fallimento. Abbiamo ancora 30 secondi per lasciare commentare questa parola a Crosetti. Fallimento è una parola urticante, piena di spigoli, ma per quanto riguarda la Champions di quest'anno è l'unica parola che si possa usare, perché ripeto, se tu hai un girone medio con una grande squadra come il Real, una squadra normale come il Galatasaray, una squadra piccola, debole insomma, come Copenaghen, e fai 6 punti, hai fallito anche perché la Champions significa soldi, significa immagini, significa l'unico vero sogno dei tifosi. È ingeneroso per la Juve dire che i tifosi pensano che lo scudetto possa essere soltanto perduto e sia ormai quasi una consuetudine. Mai la Juve nel dopoguerra ne 23 di fila, sarebbe dunque una grande impresa, però c'è poco da fare. Se chiedete a qualunque juventino che cosa vuole sotto l'albero, cosa sogna di notte, dirà la Champions, e questa Champions per un motivo o per l'altro è sempre lontana. Grazie Maurizio Crosetti. Pier, copriti bene perché ti aspetto domani. Ormai è tutto in discesa. Buon ciao. Viaggio, ciao. Ciao. Ci fermiamo per la borsa, giusto il tempo della borsa, e poi torniamo. 800 24 0024, perché sono molto curioso di sapere, capire che cosa avete da dire voi. Tutti convocati. Van Rijn che gira in area, al centro, mamma che paura, e finisce qui. Spaventone clamoroso per tutti i milanisti, all'ultimo respiro di una partita. Non capisco perché un ascoltatore mi scrive: ma non è vergognoso che il Milan sia passato? Vergognoso perché? Milan certamente non è stato brillante, di sicuro non è una squadra che può vincere la Champions, anzi con ogni probabilità, visti gli incroci che si preparano, andrà fuori al prossimo giro, perché non vedo squadre deboli dall'altra parte che possano essere a misura di Milan. Forse il Manchester United, il che è tutto dire, l'Atletico Madrid, il che è tutto dire, insomma, però di vergognoso non c'è nulla. Ieri il Milan ha giocato una onesta e coraggiosa partita contro l'Arsenal, che non è il Real Madrid, contro l'Ajax, che non è il Real Madrid di sicuro, però l'ha anche giocata in inferiorità numerica per 70 minuti. E per una squadra che già non sta benissimo come il Milan, giocare 70 minuti in inferiorità numerica con Poulsen, che ha cercato di vincere a modo suo anche questa partita, paradossalmente possiamo dire che è stato il migliore in campo. Io non so se e come abbia provocato Montolivo. Di sicuro Montolivo ha fatto una sciocchezza colossale, perché quel fallo al 20° minuto di una partita in cui ti giochi il passaggio del turno è una fesseria enorme. Ascoltatori convocati tutti, 800 24 0024. Gennaro da Napoli, buongiorno. Sì, buongiorno Carlo, sono Gennaro, chiamo da Milano, sono napoletano e sono orgoglioso e fiero della mia squadra. Bravo, e volevo hai dire ragione. Te mi fa gli auguri in diretta nazionale, che sono oggi è il mio compleanno, grazie. Quanti anni? 53. Tanti auguri Gennaro. 53. Abbiamo anche l'applauso? Grazie. Sì, che ce l'abbiamo l'applauso. Sono estremamente felice. Perché anche... ascoltami, ma perché secondo te gli juventini se la prendono così tanto se io parlo di fallimento? Perché insomma, nella logica dei fatti. Carlo, io ci scherzo su, io faccio i clippini, metto su Facebook, mi diverto un po', però devo dire, io non posso imitare a Conte perché ho la pronuncia come faccio, ma comunque è agghiacciante quando dice che non si poteva giocare, quando si lamenta e dico no, cosa poi... stiamo parlando quando poi dice sono di... ci sono anche dai, un po' arrogante. Guarda Gennaro, buon compleanno ancora, ma ci sono anche molti juventini tra il popolo degli SMS che sono insomma usano un po' più la logica e la coerenza scrivendo che la Juventus questo passaggio se l'è fumato non tra le zolle di quella porcilaia che era il campo di ieri, ma vincendo una sola partita in casa con due rigori contro Copenaghen, pareggiando quella con il Galatasaray, pareggiando a Copenaghen alla prima partita, e le due partite con il Real Madrid alla fine contano relativamente. Quindi io dico che il risultato è sportivamente giusto, è sportivamente corretto, perché è una squadra che gioca così il girone, fa così pochi punti, subisce tra l'altro molti gol, 8 se non ricordo male in 6 partite, in un girone come questo merita di non passare. Poi c'è anche chi dice, ora scommetto sulla Juventus che vince lo scudetto e l'Europa League in casa, perché la finale di Europa League si giocherà come sapete allo Juventus Stadium. Montella per esempio di questo avviso. Comunque anche la Juve adesso farà l'Europa League come la Fiorentina, grazie. Una finalista ce l'abbiamo già. Avete capito? Una finalista ce l'abbiamo già. E Montella mette le manine avanti. Emanuele Ancona, buongiorno. Sì, buon pomeriggio. Io volevo intervenire in merito a una considerazione storica. La Juventus in Europa ha sempre fatto figure barbine, perché in realtà per me non ha vinto neanche una Coppa dei Campioni. Lasciamo stare quella dell'85, che è vergognoso considerarla tale, perché andava messo non assegnata. Poi ne ha pareggiate due, una con l'Ajax e una con il Milan. Questo dimostra il fatto che i due scudetti consecutivi della Juventus, in realtà, se andiamo a vedere gli episodi, torno sempre a ribadire, il gol di Muntari 2 anni fa era chiuso il campionato e quindi il Conte aveva vinto solamente un campionato. Quello dell'anno scorso. Vabbè, qui comunque sì, Emanuele, il Milan continua a mantenere quello che è la sua tradizione europea. Sì, la sua tradizione europea, anche il Milan era in un girone alla fine abbastanza morbido, però ha fatto il suo e certamente il Milan è in condizioni diverse rispetto alla Juventus, però mi sembra che lei metta lì un po' troppe ipotesi, un po' troppi periodi ipotetici. Un Champions la Juventus, allora lasciamo stare se vuole quella della Zell, però una Champions ai rigori l'ha alzata, non c'è nulla di male, e fa il paio con quella alzata dal Milan proprio contro la Juventus all'Old Trafford. Quindi vale anche vincere le Coppe dei Campioni ai rigori, non capisco perché si debba dire non ne ha vinta neanche uno, Conte avrebbe vinto uno scudetto solo. Abbiamo le controprove, prendo per buono l'almanacco. Luigi, provincia di Recco. Buongiorno, dottor Genta, grazie buongiorno. Per la convocazione. Io arrabbiato? Da juventino sono arrabbiato per il Napoli che per la Juve. Bravo, ha ragione. Perché la Juve con 6 punti, anche arrivare a 7, poi lasciamo perdere, se non vinci coi danesi meriti venire a casa, chiuso. Io la vedo così. Io ribadisco anche una cosa, che è assurdo che la terza vale in Europa League, però la regola è quella, dico che guardando in prospettiva, con questa squadra andare a casa al prossimo turno quasi è meglio andare in Europa League, che più prospettive di fare strada. Ma allora, però mi dipende. Faccio dire solo una cosa, sì, la dica. Sulla difesa della Juve, che è anche la difesa della nazionale, che viene tanto decantata, lo dico da juventino, fuori dall'Italia prende gol da tutti, dall'Armenia, dalla Danimarca, dalla Bulgaria, dai danesi, dai turchi. È una difesa colabrodo, va bene in Italia perché in Italia siamo i meno peggio. Io la vedo così e lo dico da juventino. Sì. perché io sento gli juventini, anche la storia del campo, mica del campo, lì dovevamo andare lì con 4 punti di vantaggio sul Galatasaray. Sì, no, ma c'è, sicuro, sicuro, ma doveva andare lì con 4 punti di vantaggio, con la qualificazione già in tasca, e poi si gioca sul campo, nel fango, una pozzanghera, sulla neve, senza la neve, e nessuno credo avrebbe avuto nulla da dire in questo caso, mentre la Juventus si è messa nelle condizioni peggiori. Poi vogliamo dire che la sfiga ci ha messo del suo, perché anche questa è un'estremizzazione, ci ha messo del suo sia per la Juventus che per il Galatasaray, che doveva su un campo impraticabile o quasi provare a vincere, no? Quindi poi si dice, vabbè, il campo è stato, se non c'è Nicola su Twitter, dite che hanno arato soltanto una parte del campo, ridicoli. C'è anche questa storia per cui avrebbero rovinato una parte del campo su quella in cui attaccava il secondo tempo la Juventus. La Juventus, secondo me, ieri ha sbagliato la partita. Si è accontentata nel secondo tempo di provare a tenere palla, di provare a giocare, quando la partita andava interpretata in un modo diverso. Su quella superficie, lancio lungo e Llorente a provare a tenere sulla palla, o magari a fare quello che ha fatto Drogba, che non è che giocava da un'altra parte, non è che giocava in spiaggia, non giocava su un campo pulito. Lancio lungo, Drogba, che gli ha ragione lei, approfitta come all'andata, perché è un gol abbastanza simile a quello del 2-2 del Galatasaray all'andata, e questo evidentemente Conte non l'ha studiato bene. Questo lancio lungo dalla tre quarti, Drogba che smista la palla di testa nell'occasione di Torino alla sua destra, in questa occasione a sinistra, Sneijder che rimane comunque un grandissimo giocatore, rimane comunque un fuoriclasse, che segna un gol meraviglioso. E ragazzi, giocavate contro due super giocatori, e il Galatasaray, che pure non ha giocato a pallone esattamente come la Juventus, forse anche peggio della Juventus, ha interpretato in questa maniera la partita. Eros, ciao a tutti. Ciao, grazie della convocazione. Grazie a te, dimmi. Volevo aprire una parentesi su alcuni episodi che si sono verificati ieri a fine della partita della Juve, e volevo essere anche un po' polemico. Sì. Io vorrei veramente un calcio dove i tifosi delle squadre avversarie, richiamate alla Champions League, vedi l'Inter, vedi la Fiorentina, vedi la Roma, tutti gli altri che continuano a gufare contro le squadre che sono in Champions League, volevo capire se queste persone hanno idea che andando giù nel ranking mondiale, adesso fanno passare una italiana su tre e arrivare agli ottavi con una sola, mentre la Spagna ne ha 4, la Germania ne ha 4, l'Inghilterra ne ha 3, adesso vado a memoria. Vuol anche dire che noi l'anno prossimo rischiamo di averne 2 in Champions League, se non sbaglio, di avere anche un declassamento a livello ranking. L'anno prossimo no, però c'è un partito di quelli che stanno a guardare certamente queste cose, questi bilanci, che sono più sportivi tra molte virgolette, e che quindi pensano l'eliminazione della Juventus può essere pesante, e del Napoli possono essere pesanti perché ci fanno perdere punti. Adesso però dei punti potremmo guadagnarli magari in Europa League, cosa che abbiamo sempre trascurato e che non abbiamo mai fatto colpevolmente. Dall'altro lato devo dire che non dico il tifo contro, ma lo scherzo, la battuta, la foto su Facebook di Conte con in mano il kebab a forma di coppa, vabbè, secondo me sono cose che ci stanno, che rientrano nei limiti di una normale dialettica giocosa. Non penso che per queste cose uno si possa offendere, no? Può essere al massimo una risata amara. Tutti convocati. Credo anche che quello che ha parlato il Corriere dello Sport, che hanno detto che c'era 2 caramelle per la Juventus, no? Credo che hanno sbagliato un po', perché abbiamo vinto e abbiamo dimostrato che siamo una grande squadra. Caramelle amare, dunque, dice Felipe Melo, sberleffo anche da lui, ex juventino, è vero, Corriere dello Sport all'epoca del sorteggio aveva scritto Copenaghen e Galatasaray, 2 caramelle per la Juventus. Le sono andate di traverso, che volete fare? Emiliano Mondolico, buongiorno, che piacere! Piacere è tutto mio, buon pomeriggio. Se si giocava sull'area di casa tua, forse Conte aveva meno di cui lamentarsi. D'altronde a me il campo non è sembrato impraticabile. Sì, era un campo pesante, però i bravi giocatori sono anche quelli che si sanno adattare ai terreni dove giocano. Sì. E perciò è andata male perché insomma, nel gol negli ultimi 5 minuti non vuol dire un dominio del Galatasaray, però andrà meglio la prossima volta. Poi c'è chi dice che sul campo difficile esce la tecnica dei giocatori di maggiore talento. Ma sai, a secondo del terreno di gioco è chiaro che devi un po' proporti. Adesso vanno di moda i sintetici, vanno di moda le scarpe da calcio in una certa maniera, i palloni un po' più leggeri. Perciò è chiaro che bisogna adattarsi. Chi si sa adattare chiaramente parte con un minimo vantaggio. Ieri era meglio magari lancio lungo, saltare quel centrocampo e cercare il testone di Llorente, come ha fatto Galatasaray con Drogba. Ma sì, poi sai, quando proponi sempre il 3 contro 3 diventa un problema, perché basta avere il minimo errore che l'avversario si trova davanti alla porta. Sì, quando ti giochi tutti in una partita secca può succedere di tutto e il contrario di tutto. Questo penso che lo sappiamo noi che abbiamo fatte tante partite secche. Sì. Tante partite secche su qualunque tipo di campo, peraltro. Assolutamente sì, e quando eravamo giovani è chiaro che c'erano dei campi che sono molto peggio. E ieri ho sentito la cosa più assurda, un campo di patate. Lì non si può piantare le patate, no, perché . Quando c'è tanta acqua le patate non crescono. E certo, ci vuole la sabbia. Ecco, perciò, anche visti. Ma cosa vuoi che ne sappia? Diamo alle patate il loro giusto giacidio. Senti, Polse stava vincendo anche la partita di Milano. Non so cosa abbia detto a Montolivo. Fatto sta che Montolivo ha fatto la fesseria più gigantesca che poteva fare, pestando questo danese provocatore dopo 20 minuti e facendosi cacciare fuori giustamente. L'ha fatto davanti al guardaline. È stato brutto l'intervento. Brutto perché è stato un intervento voluto sulla caviglia dell'avversario, ed è chiaro che il guardaline ha detto dettagliatamente all'arbitro cosa era successo, e l'arbitro non poteva fare altrimenti, perché non puoi andare contro la decisione di un tuo collaboratore quando il tuo collaboratore è così convinto. Ma diciamo che è stata la molla quella lì che ha fatto assumere al Milan un certo tipo di atteggiamento. Il Milan è stata, cioè, a differenza di quanto si poteva intuire, ha fatto una gara all'italiana incredibile, ha fatto un catenaccio di quelli che chiaramente mi piacciono moltissimo, e alla fine che abbia raggiunto il risultato attraverso la sofferenza, il sacrificio e non tacco e punta, diciamo che è una cosa che mi dà soddisfazione, e penso che l'uscita di Montolivo abbia contribuito a far sì che questo atteggiamento sia diventato alle volte esasperato. Pensa a Roberto da Crema, grande mondo, la Torino che conta, cioè quella granata, ti adora. No, io penso che il Toro sta facendo un bellissimo campionato, la Juve è la squadra più forte, la Juve è andata male questa partita secca, il Milan diciamo è andata bene questa partita basata neanche sul contropiede, catenaccio e basta. Certo, senti, ma i corvi ti piacciono? Non quelli che vedi dalla finestra in campagna in questo momento? I corvi sono utili, non mi piacciono, però sono utili perché raccolgono tutte le carogne che ci sono in giro per la campagna, fanno un po' da spazzini naturale, perciò è la loro utilità. Perché anche nel calcio? Anche nel calcio? No, ma non credo che esistano nel calcio, Come penso no, che, dai. Non penso che siano lì sulla sul tetto della tribuna a guardare quello che succede. No, sul tetto della tribuna no, ma davanti alla televisione interisti e milanisti e juventini. No, Emiliano fa il bravo, sai che è così. Dai, no, io penso che sicuramente quando squadra è una squadra vincente e dici cavolo, è possibile che vincono sempre. Ma la stessa cosa è capitata alla Roma dopo le 10 vittorie. È chiaro che tutti si aspettavano che prima o poi la storia finisse, ma fa parte del gioco. Però almeno per quanto mi riguarda personalmente, quando gioca una squadra italiana sono sempre favorevole a un risultato positivo, sì, per tantissimi motivi. Sì, certo, le lacrime di Higuain sono molto tristi, ma insomma è giusto piangere di rabbia quando perdi così. Il Napoli ha fatto una grande partita, tanta roba, ma questi stranieri, queste squadre straniere che chissà che cosa ci devono insegnare. Abbiamo visto l'Arsenal che ha subito il Napoli per 90 minuti, l'Ajax che non è stato capace di proporsi in 10 contro 11. Ma siamo sicuri che questo calcio europeo è così più forte del nostro e che noi proprio siamo conciati male? Perché da quanto visto ieri sera sono conciati più male gli altri di noi le nostre formazioni hanno fatto delle ottime partite. Sono bravo. Gli altri che dopo mi dicono che qualche dall'altra interrogativo parte devono farselo. Ma hai ragione, anzi è una domanda che io lascio lì per gli ascoltatori dopo il giornale radio. Grazie Emiliano, ti abbraccio. Grazie, e in paradiso si gioca soprattutto in Italia. Buon pomeriggio. Grandissimo. Tutti convocati. Quindi io sono felice di aver fatto una prima parte in Champions e di continuare in Europa League, anche perché non mi interessa l'Europa League entrarci direttamente per essere arrivati quarti o quinti, ma entrarci dopo aver fatto alcune partite di Champions, comunque nei sedicesimi, vuol dire che avremo ancora molto da giocare, e quindi alla fine il fatturato della Champions e il fatturato della Europa League messi insieme significheranno comunque qualche cosa. Bravo De Laurentiis, bravissimo, bravissimo, parole di grande saggezza, e spero che poi i fatti corrispondano agli intenti, perché mai come quest'anno ci presentiamo nella vituperata Europa League, vituperata e maltrattata almeno da noi italiani, con tre squadre più la Lazio. La Lazio non credo sia da corsa in Europa League, ma perbacco, Juventus e Napoli sono certamente e Fiorentina sono certamente da corsa per questa competizione. Quindi agli osservatori del ranking, agli esteti del ranking, a coloro che guardano il ranking come il Vangelo, ecco, consiglio di guardarsi un'Europa League dalla quale possono arrivare quei punti che da lì non sono mai arrivati, non sono mai arrivati in Italia, per colpa nostra, per colpa delle nostre squadre che hanno affrontato una manifestazione peggio della Coppa Italia. C'è la finale a Torino, Montella scommette su una finalista che sarà la Juventus, vediamo, ma intanto sarà interessante. C'è chi ricorda, ma molti lo hanno postato anche sul nostro, su Twitter da noi, quel gol, di famoso gol di Ronaldo del 98, che danzava proprio in Coppa UEFA sul fango di Mosca, un gol pazzesco di Ronaldo su un campo che non era molto diverso poi da quello su cui si è giocato ieri, Juventus Galatasaray. Andrea Treviso, buongiorno. Buongiorno a tutti a voi radioascoltatori. Io chiamavo perché probabilmente penso che la Juve in Italia sia la squadra nettamente più forte delle altre. Probabilmente a volte la mentalità vincente non è la stessa dell'allenatore, che prima della partita dice non si può giocare in questo campo. Questo vuol dire, tra virgolette, mettere le mani avanti. Però io da sportivo, da uno che ha giocato a calcio, vi posso dire che da giocatore un calciatore dice il mister mi crea delle attenuanti. Perdo la partita, ragione, comunque è anche ragione. Colpa del campo. Ha ragione. Uno deve entrare si creano degli alibi. Andrea, si creano degli alibi a tutti quanti, anche a se stessi, bravissimo, no? Bravissimo. E secondo me questa è la nota dolente di una Juve che è straforte anche in Europa, condivido quello che ha detto Mondonico, però entra in campo dicendo non si può giocare, hai paura di giocare. No, io entro in campo e devo vincere la partita, perché il campo è lo stesso per tutti e due. Certamente. E i miei giocatori, devo dire, il campo è così per noi e anche per loro. Noi siamo più forti e vinceremo la partita. Sì, sì, sì, ma è così. È così. È impossibile. Ma era chiaro, Andrea, però era chiaro fin dall'inizio, anche perché Mancini ha detto prima della partita, o di quel che restava della partita, ha detto più o meno le stesse cose di Conte. Quindi entrambi hanno cominciato a costruire un alibi per quello che dei due aveva avuto destino peggiore, ce l'ha avuto Conte. Piuttosto io credo che se il campo è difficile, come spesso succede nel calcio, un campo sia complicato, poi in Italia abbiamo una lunga tradizione, no? di campi che sono un disastro, quindi non si può neanche dire che qui si giochi solo sul biliardo, andiamo all'estero e oddio cosa succede, c'è il fango. Quindi sappiamo benissimo cosa voglia dire giocare su campi orripilanti, magari si può provare anche a cambiare modo di giocare, come dicevo prima, come ha fatto peraltro Galatasaray. Benissimo, poi questo per ricollegare anche il fatto che probabilmente se qualche risultato non viene in Europa, anche in virtù del fatto che siamo noi i primi, anche i tecnici, anche i giocatori, a dire che le squadre straniere sono più forti di noi. Probabilmente anche questo approccio può influire anche in minima parte, non so in che parte, però ha dei risultati negativi, che sembra sempre sì, che anche chi gioca parta già perdente, perché gli altri sì, sono più forti. Sì, sì, sì, ma comunque campo, guardi, io credo che insomma quest'anno ci ha detto particolarmente male, due fuori al primo giro, il Milan che secondo me delle tre è la meno competitiva, che riesce ad andare avanti con grande fatica e che non ha grandissime chance, secondo me. Lunedì c'è il sorteggione in sala mensa, Nyon, scopriremo l'avversario del Milan, ma sarà un avversario di prima fascia molto complicato e a mio parere inarrivabile per il Milan, quello attuale, compreso Honda, che è stato ufficializzato, arriverà e giocherà con il numero 10. Resterà comunque un passaggio quasi impossibile per questo Milan, però devo dire anche che, anche se quest'anno ci ha detto particolarmente male, insomma le cose cambiano molto rapidamente, in maniera qualche volta inspiegabile. L'anno scorso gli inglesi tutte fuori, sono state delle annate in cui le spagnole dominavano e poi magari la stagione successiva uscivano tutte. Adesso abbiamo tutte le inglesi, le tedesche sono tutte lì, le spagnole ci sono, Real, Atletico, e ovviamente il Barcellona, e noi rimaniamo col cerino in mano e facciamo la figura della Cenerentola. Però non ha torto Mondonico prima, perché i risultati bisogna anche leggerli, e allora dobbiamo dire che se è vero che il Milan è passato, la Juventus è finita fuori in questa maniera, il Napoli ha fatto una grandissima Champions League. Ovvio che la partita fosse quella di Dortmund, non è riuscito ad interpretarla al meglio, ieri sera ha chiuso come meglio non poteva, in tutta onestà, perché ha giocato una gara straordinaria e a 5 minuti, i soliti 5 minuti dalla fine, era dentro, perché a Marsiglia erano sull'1-1 Marsiglia-Borussia Dortmund. Poi c'è anche chi fa della dietrologia, ricordando come tra Marsiglia e Napoli non ci sia buon sangue, come nella Champions League 2011-2012 il Borussia Dortmund, già eliminato, fece grosso modo un favore al Marsiglia, perché vinceva 2-1 il Borussia, già eliminato all'84esimo, ebbene la gara finì 3-2 per i marsigliesi, e qualcuno diceva beh, gli ha restituito il favore. Questa è dietrologia nella quale noi italiani siamo peraltro strabravi. Cosa scriveva Bonucci su Twitter? Tutti zitti, colpa nostra, non ho fatto in tempo a leggere. Scriveva tutti zitti, colpa nostra, non lamento. Zero scuse, zero rimorsi, andiamo avanti. Questo è. Io prendo per buone le parole di Bonucci, perché sono buone le parole di Bonucci. Saluti e ringrazio invece un signore che sulla neve deve andarci, cioè ci va per, guai se non ci fosse la neve, ci va per sport e per lavoro. Ronald Fischnaller, ciao. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao, sei juventino per caso? No, sono milanista. Sei milanista, allora tu sei passato in Champions League, la Juventus no. Quel campo, quello di Istanbul, forse poteva essere buono per una gara di snowboard, o no? Ah sì, sì, sì, noi cominciamo domani con le nostre prime gare di Coppa del Mondo qua a Carezza. A Carezza, prime gare di Coppa del Mondo, com'è la pattuglia? Sì, penso che ci possiamo difendere abbastanza bene, io e i miei compagni di squadra ci impegniamo al massimo, la neve è molto buona e quello ci viene tanto incontro e speriamo che ci possiamo difendere dagli altri concorrenti. Lunga marcia verso Sochi, no, Roland? Sì, la marcia è ancora abbastanza lunga, ci sono ancora 2 mesi, però adesso dobbiamo prima prendere l'andata con le gare di Coppa del Mondo, però siamo preparati abbastanza bene. La prima cosa, ci divertiamo in un casino e quello è fondamentale. Sempre. Ci piace tantissimo questo sport, ci impegniamo e poi vediamo cosa esce. Ma c'è chi dice che voi siate nel mondo dello sci, i pazzi siano quelli dello snowboard, è così? Ma penso che i pazzi non siamo così più pazzi, siamo tutti atleti professionisti, ci alleniamo tutto l'anno e ci impegniamo, perché anche le nostre medaglie olimpiche ci dobbiamo veramente guadagnare con tanto sudore, e per quello ci alleniamo alla grande. No, questo è indubbio, però siete quelli che più sanno divertirsi alla fine. Sì, quando c'è festa certamente usciamo volentieri e facciamo festa anche fino alla mattina, se capita ogni tanto, però sì, dopo quando finito le gare. Finite le gare, fiesta e tutto conta, tutto vale. Senti, ma a Sochi a fare cosa noi italiani dello snowboard, secondo te? Sì, io e il mio compagno di squadra Aaron March certamente non andiamo a fare i turisti olimpici, vogliamo veramente andare perché abbiamo obiettivi molto chiari e abbiamo anche tante possibilità che abbiamo già fatto vedere nelle stagioni scorse, che siamo anche noi molto competitivi e certamente l'obiettivo è di andare là a fare le medaglie. A prendere qualcosa di importante, a portare a casa del metallo che conta. Certo. Grazie Roland. Grazie a voi. Bocca al lupo. Buon pomeriggio. Crepi, grazie. Roland Fischnaller, certamente lui non avrebbe avuto paura di giocare su quel fango. Beh ragazzi, torniamo a parlarne domani, io credo di sì, credo sarà ancora argomento di discussione. Franco Piantanini, autore di questo programma, Fabio Cantadori in regia, domani tutti convocati alle 14, ciao!